e anche i soldi non ne ho più. Entro a letto piano piano, che dolce uragano sei tu. Le mutande tricolori le ho lasciate lì da lei, quando mi ha buttato fuori, ma che dolce uragano che sei. Alzate e fammi un caffè, vedi che ancora bisogno di te. E non mi chiedere di essere erotico, se non ti va, è un dolce uragano sarà l'amore. A tutte le ore viene e va, a tutte le età, e presto il cielo cambia in blu. I tre giorni in un motel, di un ricordo che si spezza nel dolce uragano di te. Lettera, lettera B, smetti di amarmi così. Cielo cambia en blu.